piano. Di Enrico Ruggeri. È la mattina del 23 aprile 2017. Le autorità di Corydon, una cittadina dello stato dell'Indiana, vengono allertate. Al 911 è arrivata una chiamata. Qualcuno ha detto: correte, c'è una persona che non respira più, che non si muove. Quando i soccorsi arrivano sul posto, possono solo constatare il decesso di una donna che versa in uno stato di evidente degrado, in una stanza sporca, in disordine. Insomma, è morta una barbona. Poco più che una barbona. I paramedici sospettano anche un abuso di alcol o di droga, tutte e due le cose. È certo che questa è una donna che non deve avere vissuto giorni molto felici. E poi però si scopre chi è veramente questa donna, perché si recuperano le sue generalità, viene fuori il suo nome e il pensiero che hanno avuto i suoi soccorritori suona come una presa in giro del destino, perché loro hanno pensato che non ha avuto giorni felici, eppure è stata una delle protagoniste principali e più amate di quella che è considerata a tutt'oggi la sitcom più famosa d'America, una delle più conosciute del mondo, forse la più conosciuta del mondo. La mia preferita, per esempio, questa. Eh sì, Happy Days, giorni felici. Ve la ricordate tutti, anche se magari siete giovani, vi è arrivato Happy Days. La povera donna trovata morta in una squallida camera in affitto, circondata da spazzatura, da sporcizia, da degrado, malata, abbandonata, è Erin Moran, quella che negli anni 70 era stata Sottiletta, la sorellina piccola di Ricky Cunningham nella mitica serie. E allora facciamoci questa domanda: come può essere successo che un personaggio del suo livello, un'attrice che aveva avuto così tanto successo, amata dal pubblico, ben pagata, come ha potuto ridursi in quello stato? Eppure non è l'unico caso, lo sapete, ne abbiamo già parlato, Arnold Docet per esempio, personaggi famosi finiti male, specialmente tra gli attori bambini, quelli fagocitati dallo show business, gente vittima di un meccanismo perverso che li ha visti solo come delle macchine per fare soldi, soprattutto nel caso dei bambini, anche senza tener conto della loro giovane età e quindi del fatto che magari avessero diritto anche di vivere l'infanzia e l'adolescenza. E bene, abbiamo raccontato noi vicende simili, Arnold ve l'ho detto, ma anche mi viene in mente Macaulay Culkin, il ragazzino di Mamma ho perso l'aereo, vittime immolate sull'altare dello spettacolo, che magari hanno anche avuto guadagni stellari che sono finiti da tutte le parti tranne che nelle loro tasche. Noi oggi vogliamo raccontare la storia di Sottiletta, Erin Moran, questa bambina, poi una ragazzina, poi una donna, vissuta sempre sul set, fin da quando era bambina, sballottata nel fisico, ma soprattutto nell'anima, con una situazione familiare difficilissima alle spalle, una situazione che l'ha segnata indelebilmente. Erin Moran nasce il 18 ottobre 1960 a Burbank, Los Angeles, a poche miglia da Hollywood. Siamo in quella che viene definita la Media Capital of the World, dove hanno sede, insomma, i più importanti impianti di produzione, la Walt Disney Company, la Warner Bros., i Marvel Studio, la Universal, la Cartoon Network. È abbastanza frequente che i bambini che abitano nelle vicinanze vengano provinati, cioè partecipano a dei casting che si svolgono quasi di routine nelle scuole. Insomma, anche lei, Erin, partecipa a diverse selezioni fin da quando è piccolissima. I Moran non lo fanno per soldi, non sono particolarmente poveri. Il padre Edward è un manager finanziario, però la situazione della famiglia non è certo quello che si dice serena, anzi, quello che racconta Erin in una intervista del 91 fa venire un po' la pelle d'oca. Non ho mai raccontato a nessuno quello che succedeva in casa nostra. Non lo ha mai saputo nessuno. Ci sono stati abusi mentali e fisici. Eravamo 6 bambini. Nostro padre beveva tanto e mia madre lo provocava. Mio padre veniva da una situazione familiare tremenda. Suo fratello, mio zio, è stato un notissimo serial killer ed è stato giustiziato sulla sedia elettrica. La madre, mia nonna, si è suicidata col veleno. Mio padre sembrava lui, Fonzie, con il giubbotto di pelle, faceva tutto il figo. Quando veniva sul nostro set lo prendevano in giro tutti, gli dicevano: dovresti farlo tu, Fonzie. Quindi quindi avete sentito qualcosa di terribile che serpeggia in quella famiglia. Un uomo che ha avuto il fratello serial killer ucciso sulla sedia elettrica, la mamma suicida, e è normale che abbia qualche problema. Il signor Moran affoga i suoi ricordi terribili nell'alcol e poi picchia i familiari. Ma per quello che riguarda i Provini, in realtà è la mamma di Erin, Sharon, che ha delle velleità artistiche, canta, balla, recita, è anche brava, ma ha 6 bambini e quindi non è riuscita a portare avanti il suo sogno. Anzi, è quel classico sogno incompiuto che può far male, può cambiarti la vita. Insomma, ci prova coi figli. Il colpo le riesce perché i due maschi, Tony e John, diventeranno 2 attori anche piuttosto noti negli Stati Uniti. Poi c'è lei, Erin, è molto portata, piace, ha una faccina spiritosa, allegra, ha preso dalla madre, canta, balla, recita con naturalezza. Erin ha solo 5 anni quando recita per la prima volta, è uno spot pubblicitario della First Federal Bank. A 8 anni, quindi nel 68, entra nel cast della serie televisiva Daktari, il titolo significa dottore in lingua swahili, è la storia di una famiglia il cui padre è un veterinario che viene mandato in Africa a curare gli animali selvatici in una riserva. E poi c'è un debutto cinematografico, sempre nel 68, il film è un film con Debbie Reynolds, How Sweet It Is, in italiano si chiama Uffa papà quanto rompi, e ha una certa popolarità da quel ruolo. E da quel momento lei comincia una carriera da attrice vera e propria, partecipa a molte serie televisive, The Don Rickles Show, The Courtship of Eddie's Father, Three Sons e la notissima Family Affair. Ma il ruolo più importante, quello che la trasformerà nella beniamina di tutta l'America, che attraverserà l'oceano, che conquisterà l'Europa, quel ruolo la sta aspettando, arriva quando lei ha 13 anni. Siamo ai primi mesi del 74, si sta lavorando febbrilmente negli uffici di Gary Marshall, che è uno sceneggiatore, un produttore di grande successo. Lui sta mettendo le basi di quella che diventerà la sitcom più famosa della storia. È una visione, diciamo, idealizzata degli Stati Uniti, non delle grandi città. Siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60, insomma, praticamente è la messa in scena della parte sorridente del sogno americano. La serie si intitola Happy Days, è ambientata a Milwaukee nel Wisconsin, e tutti i ragazzi della mia generazione hanno imparato a conoscere Milwaukee grazie a Happy Days, ed è imperniata sulle vicende di una famiglia, i Cunningham, attraverso storie d'amore, d'amicizia, feste, scuola, cinema, musica. Insomma, è uno stile di vita che in quell'epoca prospera in America. Si delinea così questo mondo, diciamo, rilassato, fatto di situazioni leggere, spassose, molto in linea con le esistenze degli adolescenti di quel tempo. È l'American Way of Life, il modo di vita americano, e naturalmente ne evidenzia gli aspetti positivi di questa serie, e non si parla della guerra di Corea o dell'approssimarsi della guerra in Vietnam. È l'America che vuole sorridere, che vuole sognare, però il tutto con una serie televisiva che piaceva anche a chi aveva gusti più occidentali, tali come me, come molti ragazzi dell'Europa. E le avventure riguardano Richie Cunningham, interpretato da Ron Howard, che oggi è un regista di enorme successo. Richie Cunningham che ha degli amici Pozzi, Ralph, ma c'è un amico particolare che ha un paio d'anni più di loro, insomma così sembra, è Fonzie. E poi attorno alla famiglia c'è il padre Howard, pragmatico, lavoratore, un po' goffo, e la madre un po' svampita, Marion. E poi ci sono tanti altri personaggi che compariranno nel corso degli anni. Richie Cunningham ha una sorellina, Erin Moran, Joanie Cunningham nella storia, è la parte, come dire, più gentile della storia. Richard, quando arriva questo tuo amico? Il purè di patate sta diventando solido. Fonzie mi ha detto che sarebbe venuto appena finiva di sostituire una frizione. Oh, speriamo che le frizioni siano il suo forte. Fonzie è un porco. Johnny? Non è vero, lui è soltanto molto sveglio, ecco. Ah, deve essere Fonzie, vado io. Io dico che è un porco. Cara, non mi piace che tu dica certe cose. Ma una motocicletta, i motociclisti sono tutti dei porci. Johnny, non si può fare di tutt'erba un fascio, lo sai. L'hai visto il selvaggio, no? Fonzie è come Marlon Brando. Fonzie, ecco mia madre. Salve. Fonzie. Mio padre e la mia sorellina Johnny. Ciao, scusate se mi sono presentato in queste condizioni, ma mi è capitata una frizione che era davvero a pezzi. Oh, non si preoccupi, non fa niente. Che cos'hai in tasca, una pistola? No, è solo una chiave inglese. Ma che vi prende? Non avete mai visto una chiave? Ecco, nonata, non una originale come la tua, no? Infatti è la mia chiave inglese personale. Noi abbiamo visto il selvaggio. Un film stupido. È vero, sono d'accordo anch'io. Se io fossi stato Lee Marvin, gli avrei spaccato la testa, Brando, con quell'aggeggio. Oh, mio signore. In realtà Erin non avrebbe dovuto esserci in quella serie. Vi racconto il motivo, perché Happy Days in realtà è uno spin-off, cioè una serie derivata da un'altra serie che si chiamava Love American Styles. Era stata trasmessa tra il 69 e il 74, 108 episodi, genere più commedia romantica. E c'erano anche attori di un certo calibro, per esempio Harrison Ford. Nell'episodio numero 22 di questa serie, che si intitola Love and the Happy Days, deriva poi l'idea di uno spin-off, appunto Happy Days, che sarà destinato ad avere molto, ma molto più successo della sitcom originaria. E in quell'episodio numero 22 sono presenti già i vari componenti della famiglia Cunningham, il padre, la madre, alcuni amici, tutti interpretati dagli attori che poi compariranno in Happy Days. Johnny però era interpretata da un'altra bambina, l'attrice Susan Neher. Quando però gli sceneggiatori metteranno a punto tutti i ruoli, si deciderà come debbano evolversi i diversi personaggi, qualcuno tira fuori il nome di Erin Moran, che viene giudicata perfetta per la parte della piccola Johnny Cunningham. Erin ha 13 anni, abbiamo già detto che ha una famiglia molto disastrata alle spalle, è piccola ma non è abbastanza piccola per non essere già vittima di paure, di insicurezze e quelle tipiche della sua età, della preadolescenza, con l'aggiunta di un padre ubriacone e una madre con la quale ha un rapporto altalenante. Ascoltate cosa ha raccontato molti anni dopo da adulta. Aveva del risentimento nei miei confronti. Me lo ha detto apertamente quando avevo 18 anni. Ho del risentimento nei tuoi confronti. Mia madre era proprio come me. Io le assomiglio molto. Sapeva cantare, ballare, sapeva suonare il pianoforte. Era piena di talento e non sopportava il mio successo. Sono dovuta diventare anche una psicologa. Era gelosa. Insomma, niente di semplice per la ragazzina, che deve combattere contro i suoi demoni, ma anche contro quelli della madre. Quando viene scelta per la parte di Johnny Cunningham, lei arriva in una situazione già preesistente, cioè gli altri attori che si conoscono tutti, che vengono dall'altra sitcom, che sono già una squadra affiatata, lei è quella nuova. Ascoltate il suo ricordo di Ron Howard, quello che interpreta il fratello Ricky, nella vita reale poi lui diventerà molto amico di Erin. Ron Howard, you were particularly friendly with. This, okay. The first time I came on the set. La prima volta che sono arrivata sul set, Tom Bosley era qui, Marion Ross qui, Ronnie qui e io qui. Io avevo 13 anni ed ero terrorizzata. Non sapevo nemmeno chi fossero Tom Bosley e Marion Ross. Ero nervosissima. Ronnie si è girato verso di me e mi ha detto: "Vuoi un chewing gum?" Io gli ho risposto: "Sì." E dopo tutto è andato bene. Lui è il migliore. Tutto è andato bene quella volta. In realtà nei 10 lunghi anni in cui va avanti Happy Days, per 255 episodi, Erin Moran dovrà passare momenti anche molto difficili, dovuti principalmente alla sua personalità, alle sue carenze affettive, e lei non riesce a colmare queste carenze nel mondo dello spettacolo, che sapete, insomma, è molto spietato a volte. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una stella, ma anche della polvere che certe stelle lasciano, perché si parla di un'attrice statunitense che è diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato un ruolo, quello di Johnny Cunningham, la sorellina di Ricky Cunningham in Happy Days, la mitica serie televisiva americana che è andata in onda per 10 anni in tutto il mondo, direi. La vediamo ancora adesso ogni tanto in qualche graditissima replica. E lei è un'attrice fin dalla tenera età e interpreta il sogno americano nel corso di Happy Days, questa famiglia di Milwaukee felice alle prese con amori adolescenziali o con contrattempi comici. Nella vita reale però lei sta vivendo un dramma profondo, un dramma interiore che le deriva da un'infanzia infelice. È un dramma che la porterà verso un terribile declino. Il padre è un alcolizzato, la madre è un'attrice mancata che riversa sui suoi figli, in particolare su di lei, tutte le sue frustrazioni, perché lei ce l'ha fatta e la madre no. E lei ha solo 13 anni quando entra a far parte del cast di Happy Days e soffre chiaramente, seriamente, per una carenza d'affetto che ormai è cronica, e una carenza che la porta a vivere probabilmente in una maniera un po' confusa la realtà, a confonderla con la finzione della scena. Conosciamo tutti i protagonisti dello show, sono tutti diventati grandi e famosi. Alcuni sono delle vere star, come Harry Winkler, Ron Howard, Tom Bosley, Marion Ross, dall'idea che fosse qualcosa di molto grande. Lo era, e ho imparato tanto, ma io non avevo praticamente una famiglia. Loro erano la mia seconda famiglia e avrei avuto bisogno di più, ma siccome io ero già una donnina, sembravo molto matura, loro pensavano che non avessi bisogno di niente, che non mi servisse aiuto, che stavo benone. Mi sentivo sola. Loro pensavano semplicemente, può fare tutto. E io lo facevo. Così tutti pensavano, non le serve aiuto, ce la fa. Facevano il loro lavoro. Semplicemente interpretavano il loro personaggio. E invece tu avresti avuto bisogno di aiuto? Sì, sì. Tutti noi abbiamo bisogno di aiuto a livelli diversi. E quindi lei, che a casa vive una difficoltà concreta, fatta anche di violenza, perché quando il padre ubriaco picchia i figli, picchia la moglie, sul set entra, o comunque vuole entrare totalmente nella meravigliosa atmosfera delle storie divertenti e spensierate dei Cunningham. Questo naturalmente non è possibile, la finzione è una cosa, la vita vera è un'altra. Lei si scontra con questa realtà, la realtà di un lavoro molto pesante, dove poi alla fine ognuno pensa per sé. So with this family. Quindi con la tua famiglia vera che ti creava tanti problemi, tu hai cercato conforto sul set, con la tua famiglia immaginaria. Non l'ho cercato e non me lo aspettavo. D'altra parte loro non sapevano quello che mi succedeva, come avrebbero potuto? Erano solo amici e mi dicevano, sei brava Erin. Ma tu avevi bisogno di più di questo, vero? Non abbiamo tutti quanti bisogno di più di questo. Ma ti senti di condannarli dato che loro non sapevano quello che ti succedeva? No, assolutamente no. Però loro pensavano solamente a se stessi e ai soldi. Io ai soldi non ho mai pensato. Non sapevo nemmeno che guadagnavo dei soldi. L'ho saputo a 14 anni e lavoravo da quando ne avevo 5. Sì, è un po' confuso il discorso di Erin. Queste sono chiaramente parole di una persona che ha sofferto. È il ricordo di una bambina che cercava disperatamente affetto e forse anche un po' di stabilità o di normalità, perché alla fine il paradosso è che era molto più normale la famiglia di Happy Days, la famiglia Cunningham, che la sua vera famiglia. E i set purtroppo non sono il posto più adatto per trovare il proprio equilibrio. Intanto però Happy Days conquista il suo successo planetario, viene diffusa anche in Europa, in Italia arriva nel 77, il pubblico di tutte le età la adora. E pensate che nel 77 c'era il punk, tutto cambiava, tutto veniva spazzato, c'era una rabbia giovanile notevole, c'era le lotte studentesche, insomma c'era di tutto. Eppure Happy Days è riuscita a passare indenne attraverso tutti questi tormenti e questi cicloni sociali. Tutti ci siamo affezionati a questa famiglia, a Fonzi e anche a lei, alla piccola Johnny, che partecipa, come dire, in maniera marginale, come tutti i fratellini o le sorelline minori, alla vita del fratello più grande, Ricky. E poi c'è Fonzi, che è un personaggio, quello con l'eterno giubbotto di pelle, interpretato da Henry Winkler, che le affibbia un soprannome che le rimarrà addosso per anni. In americano è shortcake, cioè frollino, dolcetto. In Italia, chissà perché, viene tradotto con sottiletta, forse a causa della magrezza di Erin. Fonzi! Sottiletta! Anna e io eravamo qui seduti a divertirci da matti, Anna e io. Gli avevo preparato un pranzo da 8 portate. Già, l'ho trovato seduto qui. Non si preoccupi, monsieur, le porto immediatamente una tovaglia pulita. Jackie! Ciao! Ciao! Già, ho perduto le chiavi. L'ultima volta che sono stato qui, l'altra settimana. Ah, sì? Tu mi stavi spiando. Sì, è vero. Lui mi stava spiando. Johnny, cerca di controllarti. Mi stava spiando. Allora hai combinato tutti questi guai per me? Ci tieni davvero? Sì. Ci ho sempre tenuto. Anch'io. E in questa scena compare un altro personaggio chiave della sitcom Happy Days, Chucky, è interpretato dall'attore italo-americano Scott Baio. Nella finzione Charles Arcola, detto Chucky, è il cugino di Fonzie, che si innamora follemente di Johnny, tanto che nella settima stagione, nell'80, quando i due sono un po' più grandi e nella vita reale hanno 20 anni, Chucky riesce a dichiararsi e lui e Johnny diventano inseparabili, anche se litigano sempre, e Fonzie deve sempre per intervenire per farli riappacificare. Ehi ragazzi, cosa fate? Non tubate ancora? Allora, piccioncini, siete ancora tristi? Non ero per niente triste, io sopravvivevo. Ma davvero? Beh, io sopravvivevo meglio di te. Sì. Sì, perché lo sai che allora, da parte mia, non avevo bisogno davvero, di te. Ragazzi, non ho tempo adesso, c'è una ragazza che mi aspetta con la cena in caldo. Tu diventavi matto perché lei usciva, tu piangevi in continuazione perché lui usciva. Lo sapete come stavate, tornate di nuovo insieme. Johnny, sei bellissima. Grazie. Quello che ha detto Fonzie... Ah, è tutto vero. Sì. Ogni parola. Sai, Johnny, il fatto di uscire con altre ragazze è stata una buona idea. Davvero? Sì, perché io ho scoperto che non mi piaceva. Sono felice che tu l'abbia capito. Anch'io. È una storia d'amore quella tra Johnny e Chucky che piace molto al pubblico, anche perché, come spesso accade nelle sitcom, come dire, i personaggi crescono di popolarità, quindi si cambiano anche nel corso degli anni le sceneggiature, e Fonzie per esempio doveva essere solo un personaggio marginale nella storia e invece ha un successo clamoroso, diventa uno dei protagonisti principali di Happy Days, è sicuramente quello, come dire, più amato, più imitato anche, e perché è quello un po' più grande degli altri, cioè di Ricky e i suoi amici. Bene, di conseguenza anche il cugino Chucky diventa un personaggio di maggior rilievo. Prima c'era un altro cuginetto che era Spadino, per chi seguiva Happy Days, insomma è una chicca che ci ricordiamo in pochi. Poi però arriva lui e in qualche modo diventa uno dei protagonisti, Chucky. Ma dietro questa storia d'amore da sitcom, quindi inventata tra Johnny e Chucky, si nasconde qualcosa di più di una semplice trovata degli sceneggiatori. Il falco e il gabbiano. E sul set di Happy Days Erin Moran, nei panni di Johnny Cunningham, sta crescendo. Dalla tredicenne bambina così magra da guadagnarsi il soprannome di Sottiletta, almeno in Italia, lei si sta trasformando in una bella ragazza e gli sceneggiatori le costruiscono addosso una storia d'amore. La storia d'amore con Chucky, il cugino di Fonzie, interpretato da Scott Baio. Però anche nella vita reale nasce qualcosa. È probabilmente il primo amore per entrambi. I due sono coetanei. E quindi hanno un flirt presumibilmente attorno ai 14-15 anni. Forse è una relazione tra ragazzini destinata a finire presto, ma la cosa fa gioco anche agli sceneggiatori e nell'ultima puntata dell'ultima stagione di Happy Days Johnny e Chucky si sposano, questo però solo nella finzione, perché probabilmente nella realtà loro in quel momento non stanno neanche più assieme. In un'intervista televisiva del 91 che lei rilascia dopo aver disertato una reunion di tutto il cast di Happy Days, Erin Moran racconta questo aneddoto legato a Scott Baio, e ancora una volta è un ricordo poco lucido forse, ma soprattutto un ricordo poco piacevole. You and Scott Baio, was there more than a friendship there on the set? You know, tra te e Scott Baio c'è stata più di un'amicizia sul set? Allora, ci siamo parlati spesso di questo argomento e lui mi ha sempre chiesto di mantenere il segreto su questo fatto che siamo stati insieme quando eravamo molto giovani. Poi ho guardato lo show della reunion e lui lo stava raccontando a tutti. Doveva essere un segreto e lui lo ha detto in televisione. Ma non fa niente, li amo tutti lo stesso. Non ho partecipato a quello show perché, secondo me, non doveva essere fatto così. Comunque è una storia d'amore questa, anche se è solo nella finzione e solo marginalmente forse nella vita reale, non lo sappiamo. È una storia d'amore che piace molto sia agli sceneggiatori che ai produttori, ma piace molto anche al pubblico perché i due attori sono comunque molto affiatati. Insomma, nell'82 viene creato uno spin-off di Happy Days che ha per protagonisti principali proprio loro due. Si intitola Johnny Loves Chucky e siccome entrambi i ragazzi cantano molto bene, la trama di questa sitcom, che verrà realizzata in 17 episodi, racconta di come Johnny e Chucky decidono di trasferirsi a Chicago per tentare la fortuna come cantanti. I due innamorati mettono su una rock band con un amico e due cugini di Chucky. E ci sono due chicche peraltro da segnalare in questa sitcom. La prima è che nel ruolo della madre di Chucky, Luisa Del Vecchio, recita la sorella di John Travolta, Ellen Travolta. La seconda cosa interessante riguarda Noi in Italia. Mentre in Happy Days la doppiatrice di Erin è la bravissima Liliana Sorrentino, e in questo spin-off lei riceve la voce dalla straordinaria Anna Marchesini. La sigla di Johnny Loves Chucky è una canzone romantica, è un duetto che ottiene un successo strepitoso soprattutto negli Stati Uniti. E dopo 4 episodi nella prima stagione e 13 nella seconda, siamo tra l'82 e l'83, i due personaggi tornano a far parte della set principale, cioè Happy Days, nell'undicesima e ultima stagione, al termine della quale, lo abbiamo già detto, i due si sposano, ma sempre nella finzione. E tra l'altro questo non è l'unico spin-off generato da Happy Days, forse non tutti lo sanno, ma Mork e Mindy, la famosissima sitcom con il giovane Robin Williams che esplode proprio lì e che interpreta l'alieno Mork, nasce da due episodi di Happy Days della quinta e sesta stagione nel 78. E tra l'altro per il ruolo di Johnny nello spin-off Johnny Loves Chucky, lei, Erin Moran, vince nell'83 lo Young Artist Award, praticamente l'Oscar degli attori cinematografici e televisivi giovani, bambini o ragazzi, e viene considerato un riconoscimento prestigiosissimo, e pensate che da piccolo lo aveva vinto anche Michael Jackson. Comunque, durante le ultime stagioni di Happy Days, una volta chiusa la sitcom nell'84, lei partecipa a altri progetti importanti, tra l'80 l'85 nel cast di Love Boat, nell'86 della Signora in Giallo, nel 98 partecipa a Un Detective in Corsia, di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Dick Van Dyke. Dottor Sloan, peraltro, in Un Detective in Corsia ricompare Scott Baio, che è uno degli assistenti del dottore. E poi nel 2009 anche delle parti nella interminabile saga di Beautiful, però c'è sempre qualcosa che non va, è un tarlo che non l'abbandona mai. Ascoltate il ricordo di Tom Bosley, l'attore che in Happy Days era suo padre, Howard Cunningham. Erin. She wasn't in the pilot. Non era nella puntata pilota. Ma siccome non piaceva all'attrice che c'era prima, portarono Erin e piacque subito. Era perfetta. Ma man mano che cresceva, aveva sempre più problemi nella sua vita privata, con la famiglia. È difficile dire cosa provocò in lei l'accumulo di tutti questi problemi, ma penso che si ammalò seriamente. Ha fatto anche un brutto matrimonio ed è sparita dalle scene. È stato pubblicato un articolo che si diceva avesse scritto lei, apparso su uno di quei terribili giornali scandalistici, nel quale lei faceva delle affermazioni e muoveva nei nostri confronti delle accuse. Ma nessuno di noi ha mai creduto a una sola parola. È molto elegante Tom Bosley in questa intervista. Lui fa riferimento a un articolo apparso sulla rivista Globe nel quale lei, Erin, avrebbe detto che il set di Happy Days era un inferno e altre cose del genere. E lei stessa poi ha smentito queste affermazioni durante un'intervista nella quale parla anche di Fonzi, cioè di Henry Winkler. What was Henry Winkler like? Was he the Fonz? Com'era Henry Winkler? Molto piacevole. Faceva il Fonzi, lo spaccone? Beh, all'inizio, quando aveva avuto quel tremendo successo inaspettato, dovevamo tenerlo coi piedi per terra. Ma lui lo fece. È uno molto in gamba, capì subito che, anche se ti dicono che sei fantastico, devi essere umile. Mia madre mi ha sempre insegnato questo. Considerati fortunata di essere qui e non sentirti migliore di nessuno. Non credere a tutto quello che ti dicono. Ecco, a proposito, cos'è quella faccenda che abbiamo letto Ok, il Globe. Sì, dice che tu hai affermato che era un inferno sul set, che erano tutti cattivi. No, non è così. Ma se rifacessero la reunion ci andresti? No, non l'hanno fatta nella maniera giusta. That same one? This one they had? No. No. They didn't do it right. Come accenna Tom Bosley nella dichiarazione che abbiamo sentito prima, Erin si sposa nell'87 con un certo Rocky Ferguson, il matrimonio va malissimo, i due divorziano, poi nel 93 sposa Steven Fleischman e con lui inizia una vita sbandata, si trasferisce nell'Indiana, non ha una casa, i due vivono nella roulotte della madre di lui, fino a quando alcolizzati e drogati vengono addirittura cacciati dal camping dove stanno per molestie, per schiamazzi notturni e insomma una storia che ha questo finale veramente triste, con un epilogo che abbiamo raccontato in apertura di puntata, perché lei è minata nel fisico da uno stile di vita dissoluto, si ammala di tumore alla gola e muore in circostanze rese ancora più tristi dal degrado in cui viene trovata, lascia le scene a 56 anni sotto Diletta, come l'avevano chiamata in Italia, e lascia i suoi fan che l'avevano amata così tanto per la sua simpatia, per un sorriso contagioso, per una grande umanità, che nascondevano invece un disagio che lei non è mai riuscita a superare. Ci sono storie di chi è riuscito, ha avuto cadute, risalite, e il problema è che spesso quello che recidi non è quello che vivi, e la nostra Erin è rimasta intrappolata da questo meccanismo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scriveteci, scrivete al nostro sito, scrivete al Falco e il Gabbiano, venite a trovarmi nei miei, nei nostri social, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.